avremo quasi 300 ospiti che proverranno da 40 paesi in rappresentanza di 40 testate giornalistiche, verranno da 4 continenti, saranno 270 ore di programmazione circa per 130 incontri, quindi un festival abbastanza intenso e consistente. Il filo conduttore di questa edizione è la prospettiva, in che senso? Ci siamo resi conto che l'anno che è passato dall'edizione scorsa di Internazionale è sembrato un anno lunghissimo, sono successe molte cose, ci stavamo appena riprendendo dalla Brexit quando è arrivata l'elezione di Trump e poi le crisi internazionali, cito tra tutte quella della Corea del Nord e poi la crisi cosiddetta crisi dei migranti con diciamo la svolta drammatica di quest'estate, e ci siamo detti ma questo mondo sta andando sempre più a rotoli, e allora abbiamo sentito un po' la necessità di fare inforcare al nostro mondino che è il simbolo del festival un cannocchiale per vedere il mondo da lontano, quindi con la giusta distanza critica, ma anche nel dettaglio, per poter un po' rendere conto di quello che succede veramente. Alcuni dei temi li hai anticipati, quindi insomma si parlerà molto di migranti, vedo anche nel programma molte questioni di genere e anche il tema delle fake news che immagino renda anche più faticoso il lavoro dei giornalisti. Sì, poi il tema delle fake news per noi che ovviamente siamo un giornale fatto di giornali è un tema fondamentale, cioè il tema dell'informazione, perché poi l'informazione è strettamente connessa con la formazione di un'opinione pubblica che è il cuore delle nostre democrazie. Quando l'informazione non funziona più, non funziona più nemmeno la nostra democrazia, e lo abbiamo visto in un qualche modo con diversi episodi che sono accaduti in Europa in quest'anno, cito tra tutti per l'appunto la Brexit, come che peso ha avuto l'informazione e che tipo di informazione hanno avuto i cittadini britannici in quel caso, ma potremmo parlare di tanti altri paesi, anche forse dell'Italia, nel formare le idee delle persone e quindi poi le loro scelte politiche. Quindi parleremo tantissimo di questo, ma parleremo tanto di Europa perché è stato un anno difficile ed è a tuttora un anno molto difficile. Ricordo che nei giorni del festival ci dovrebbe essere previsto il referendum di indipendenza della Catalogna. Parleremo di migranti perché la questione dei migranti è al cuore delle crisi dell'Europa. Parleremo di mondo arabo, di Medio Oriente, che è il mondo di fronte a noi, che come dire noi viviamo come di fronte a uno specchio. Ma parleremo poi di altre crisi in altri paesi. Siamo dalla Corea alla Colombia, al Venezuela, alla Siria. Ci sarà insomma tutta l'attualità internazionale in questi 3 giorni a Ferrara. Volevo dire che non saremo soltanto noiosi e soltanto molto seriosi, cosa che è un vizio che ci viene spesso attribuito, perché ci sarà anche tanta cultura, ci sarà anche tanto spettacolo, tantissima fotografia. Ricordo nuovamente la mostra del WordPress Photo, che è il più grande premio di fotogiornalismo del mondo, ma tanti concerti. La sera Vasco Brondi avrà un DJ set insieme ad altri prestigiosi ospiti, ci sarà un concerto di Roy Paci, ci saranno dei cori, delle orchestre, tanto cinema, le rassegne, i documentari, insomma tenteremo anche di divertire il nostro pubblico, non soltanto di fornirgli tante informazioni. E che rapporto si è creato con la città? Allora, siamo all'11ª edizione quest'anno, siamo cresciuti, o forse dovrei dire invecchiati insieme alla città, oramai si è stabilito un rapporto direi molto forte, sempre di più ci sono realtà cittadine che partecipano alla propria l'ideazione, la creazione di pezzi del festival, ci sono le scuole che partecipano sempre di più, non soltanto in quanto spettatori ma anche in quanto protagonisti, cioè alcuni licei faranno proprio da giornalisti, intervisteranno degli ospiti, c'è l'associazione Occhio ai Media che già da anni cura una sezione del festival, più tante cooperative, tante veramente realtà locali che sempre di più entrano dentro al programma e diventano a tutti gli effetti dei nostri interlocutori nel creare le edizioni del festival.